batulekele imokwani mutimeto. Batulekele imokwani mutimeto. Batulekele imokwani mutimeto. Yani kodila kadile. Ya Rogero di la Cadile, ah, ma tu le tele i mo quani mutti metto, ah, ma tu le tele i mo quani mutti metto. Fracasere di la Cadile.